Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Leggo su un settimanale finanziario che la disoccupazione nei prossimi mesi, con grande probabilità, si impennerà ovunque in Eurolandia. E questa peserà significativamente sulle spese per consumi. E penso in particolare per l'Italia, dove rientrare nel mercato del lavoro, se lo si è perso dopo i 40 anni, è pressoché impossibile. Dove a 50 si è troppo vecchi e a 20 troppo giovani. Dove la precarietà non si capisce bene nemmeno cosa sia, essendo solo sinonimo di impoverimento generale, e dove, in assenza di programmazione, gestione e ammortizzatori sociali, in particolare per l'Italia, ciò sarà un dramma. Un dramma di quelli che appartengono alle conseguenze invisibili. E mi domando, a cosa servono misure a protezione del reddito delle famiglie se questo reddito non vi sarà più? A cosa servono interventi di tipo finanziario o di altro genere se si permetterà un'emorragia di 1 milione di posti di lavoro buoni per sostituirli in un prossimo futuro post-crisi con posti di lavoro fasulli? Il tutto venduto come rafforzamento del sistema? Diamo con la mano destra ciò che togliamo con la sinistra, forse? La risposta mi sembra ovvia, ma la lascio agli esperti. A mio avviso, ciò che occorre fare in primis è impedire l'emorragia di posti di lavoro buoni, anche se forse la situazione generale potrebbe essere la scusa giusta per dimagrire e razionalizzare con il consenso pubblico. A intervenire in questo frangente dovrebbe essere soprattutto il sistema dei prezzi, ancora rigidi all'ingiù. Tutto ciò che con l'introduzione dell'euro è cresciuto ingiustificatamente oltremodo dovrebbe rientrare nei ranghi e allinearsi al potere d'acquisto dei salari che negli ultimi 7 anni sono saliti solo del 14%. Il tanto rispettato lavoro, quello che regge la nostra Costituzione, è diventato affare per fessi. I soldi, gli affari, la vita, il benessere, il paese si basano su altro, non sul rubare la pagnotta ogni giorno, come qualcuno ora stigmatizza il lavoro dipendente. Il business è nella flessibilità. Peccato che sia per pochi e che quando si è in pochi non si va da nessuna parte. Ci dovrebbe essere una seria battaglia contro i privilegi e le caste. Nessuno mi può convincere che per le compravendite delle case e per avere la certezza delle visure ipotecarie e catastali occorra l'intervento di un professionista come il notaio, che deve evidentemente essere di altissimo livello, visto che solo circa 5.000 persone in Italia possono esercitare questa professione. Come mai professionisti di così alto valore debbono impegnare l'80% del loro tempo per autenticare ciò che un'efficiente amministrazione pubblica dovrebbe certificare al 100%? L'eliminazione di questi balzelli e di molti altri con la creazione di un'amministrazione pubblica, non solo libera da fannulloni, ma anche affidabile, libererebbe per i consumi risorse tali da poter affrontare la crisi senza andare fino a Washington. Alessandro. Si sbandiera la riduzione delle assenze nel pubblico impiego, ma mi sento in dovere di dire che la mancanza di una visione sistemica non fa considerare la spesa per le visite fiscali, che ai sensi della legge 133, legge Brunetta, devono essere inviate anche per un giorno di assenza. Nella scuola che dirigo ho inviato ben 25 visite fiscali, che al costo di 40 euro l'una portano ad una spesa di 1.000 euro. Se moltiplichiamo per 11.000 scuole italiane, viene una spesa di 11 milioni di euro e siamo solo a novembre. La scuola non è terminata e noi siamo solo uno dei settori del pubblico impiego. Non era meglio dare la responsabilità ai dirigenti per l'invio della visita fiscale? Io tengo sotto controllo l'andamento delle assenze del personale, è il mio lavoro, e devo perseguire gli obiettivi con i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. Ad un'assenza non corrisponde sempre la sostituzione del personale, perché utilizzo risorse interne, dando anche dei bonus monetari o in recuperi. Non era più gratificante e meno dispendioso premiare i virtuosi dando loro un bonus se non si assentano? Francamente non capisco e mi piange il cuore a vedere quanto si sperperi o si legiferi senza ottenere nulla. Rita, dirigente scolastico, MEDA. Secondo voi, è aumentata l'efficienza della pubblica amministrazione, ora che Brunetta ha penalizzato tutti i lavoratori che si ammalano, fannulloni e poveri sfigati che si rompono una gamba, o peggio si ammalano di tumore? Se devo prenotare una mammografia, secondo voi, adesso aspetto forse di meno? Le pensioni vengono forse liquidate in meno tempo? Mi piacerebbe vedere le statistiche sui risultati e sulla produttività, oltre che sulle assenze. Lavoro nel pubblico impiego e in ufficio rispetto allo scorso anno, noto molta più rabbia e risentimento e meno voglia di produrre. Cecilia. Vorrei esprimere alcune osservazioni in merito al fenomeno Brunetta. Se da una parte è condivisibile lo sforzo del ministro per raddrizzare la pubblica amministrazione, non sono a mio giudizio invece condivisibili né il metodo né gli obiettivi. Occorre essere più seri e fare autocritica. Le sue sparate, generiche e sovente fuori luogo, non fanno altro che demotivare ancor di più i lavoratori ed accrescere nell'opinione pubblica un'idea, già ben radicata, di lavoratori sfaticati e spreconi. È vero che nella pubblica amministrazione ci sono i fannulloni, ma chi ha creato le condizioni? La classe politica tutta, naturalmente, della quale Brunetta fa parte. Una classe politica che da sempre utilizza questo metodo, un principio ben consolidato che in cambio di un posto di lavoro sicuro e a tempo indeterminato si assicura il voto di scambio. Si è quindi arrivati senza alcuno scrupolo a riempire la pubblica amministrazione di personale, quando ne basterebbe la metà e ben retribuita per garantire efficienza e servizi decorosi. Che dire poi dei numerosissimi dirigenti, direttori, eccetera, eccetera? Come si diventa dirigenti o direttori nella pubblica amministrazione? Perché si è sponsorizzati da quel partito o da quel politico? Non certo per capacità, che rappresenta quindi una condizione non essenziale. Da ultimo, che dire delle società di proprietà pubblica costituite ad arte per creare posti di amministratore delegato e consiglieri vari o per creare posti ai trombati della politica? Spesso sono gli stessi consiglieri già in carico alla società madre. Così i consiglieri di amministrazione prendono soldi sia dalla società madre che dalle altre società. Che dire delle consulenze, affidate sempre a persone o società vicine ai partiti che in quel momento gestiscono la cosa pubblica. Ce ne sarebbero ancora di sprechi da elencare e sui quali intervenire, ma il buon Brunetta non l'ho ancora sentito parlare di questi. Solo i lavoratori che prendono 1.200-1.400 euro al mese sono il vero spreco, quelli su cui bisogna agire e sui quali ogni giorno bisogna sparare. Signor Ministro Brunetta, forse è il caso di iniziare dall'alto per dare l'esempio a chi sta sotto e non viceversa. Lettera firmata. Il problema dell'amministrazione pubblica è l'orario di lavoro. Se escludiamo i milioni di dipendenti pubblici che, essendo di parte, non sono interessati a modificare il loro attuale stato di grazia, provate a pensare che bello sarebbe recarsi in posta in qualche ufficio di tribunale di pomeriggio o di sera. Invece no, solo il mattino e per poche ore. Così chi sfortunatamente lavora nel privato deve assentarsi dal lavoro. Il problema è che proprio l'orario ridotto e la paga più che buona, se rapportata alle ore effettivamente lavorate, danno al lavoro statale un fortissimo potere di attrazione. Preferisco essere insegnante precaria, così il pomeriggio faccio le mie cose. Ho aspettato questo lavoro per 3 anni, così posso avere il pomeriggio libero. Queste sono le risposte della maggior parte dei dipendenti pubblici e non sono certo risposte di passione e piacere per il lavoro. Ecco il rimedio che potremmo chiamare coraggio. Emanare subito un decreto legge con validità immediata che stabilisca che il contratto per il pubblico impiego sia di 40 ore, con turni da 8 ore per tutti, anche per i turnisti di notte. Così facendo, con le nuove assunzioni, si comincerebbe a costruire una struttura nuova più orientata al servizio. Il nuovo orario consentirebbe di smaltire più lavoro e di allungare l'apertura degli sportelli. I vecchi contratti, quelli attuali, non saranno rinnovati. Non vedo perché la posta alle 14 si congeli. Non sarebbe meglio un flusso continuo? Ci sarebbe ancora più lavoro, no? Ed ecco invece un rimedio alternativo. Portare l'orario di lavoro del settore privato come quello pubblico. Infine, un rimedio di riserva. Calcolare una paga oraria di riferimento, lasciare libera la scelta dell'orario alle rappresentanze di categoria e calcolare la paga mensile in base alle sole ore lavorate. Almeno un parametro deve essere uguale tra le varie categorie, altrimenti il concetto sociale non esiste, a meno che la pace sociale in realtà non la voglia nessuno. Il problema però è troppo esteso e incancrenito. Anche molti imprenditori e artigiani hanno mogli e figli che lavorano nel pubblico. Circa 1 milione di famiglie basa il proprio programma di vita sul ritmo di lavoro e di paga scandito dall'amministrazione pubblica. Perché dovrebbero cambiare? Per questo il federalismo integrale, dove ogni regione si organizza in modo indipendente, è l'unica via d'uscita. Il ministro Brunetta, in realtà, sta solo muovendo le acque, ma di concreto non concluderà niente. Il coraggio sta nel risolvere i problemi, non nello spostarli. Coraggio è una parola seria. Elena. Carissima Elena, le sue proposte sono certamente interessanti. L'attenzione al cliente è una regola che viene ripetuta, ma a cui spesso negli uffici pubblici non corrispondono scelte concrete. Qualche passo avanti, bisogna dirlo, c'è comunque stato. In molti uffici postali si può stare in coda comodamente seduti leggendo il giornale e aspettando la chiamata del numero senza fare la coda in piedi con i soliti furbi che cercano di farsi strada gomitate. Ma l'augurio è che si possa arrivare ad abolire le code, a rendere più vicini gli sportelli, a ridurre al minimo le operazioni per cui sia necessario recarsi di persona ad orari prestabiliti. Ben vengano quindi le aperture serali, ben vengano gli uffici postali o comunque gli uffici pubblici come luoghi di incontri e di aperta socialità. Ma un servizio efficiente, questo il ministro Brunetta lo sa anche se è difficile realizzarlo, non sta solo nel rendere semplici le procedure burocratiche. Molto spesso sta nell'abolire le procedure inutili. Ho ascoltato divertita la lettera che l'Associazione Anziani dell'Isola, quartiere di Milano, ha scritto sui graffittari. È un piacere raro sapere che persone intelligenti condividono il mio punto di vista e lo esprimono in maniera spiritosa. Vivo nel centro storico di Bologna e la lunga e armoniosa ghirlanda dei suoi portici è sporcata e avvilita da deficienti che tracciano con le bombolette spray scarabocchi di ogni genere. Non si salva un muro né una colonna. Mi chiedo sempre come sia possibile che ci siamo ridotti così e mi colpisce dolorosamente l'idea che un bimbo che cresca oggi in città riterrà poi normale che non ci sia un tratto di muro pulito o una colonna senza sgorbi indelebili. È facile dare la colpa agli amministratori, ma dovremmo essere noi cittadini a convincerci e a convincere che una situazione del genere non può essere tollerata. Dovremmo essere noi a trasformarci tutti in imbianchini, difendendo il nostro pezzo di città, organizzando manifestazioni oceaniche per esigere a gran voce che gli amministratori e le varie polizie agiscano in modo deciso, ad esempio sospendendo la vendita delle bombolette spray in tutta la provincia o arrestando chi è sorpreso a deturpare l'altrui proprietà. E invece c'è chi, per stolto progressismo o in malafede, difende la street art. E c'è chi aspetta che siano gli altri a fare qualcosa. E intanto, perché non fondiamo un movimento Muri Puliti? Potrebbe diventare un partito importante e, se non altro, avrebbe un programma ben definito, la cui realizzazione sarebbe sotto gli occhi di tutti e a beneficio di tutti. Il rinascimento dell'Italia può anche cominciare dalla punta di un pennello da imbianchino. Laura. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.